Benvenuti, proseguimento del corso Mishnah di Kollel Torah Roma. E proseguiamo sempre con il terzo capitolo del trattato Bava Metzia della Mishnah, intitolato Hamafkid. Siamo arrivati alla terza Mishnah, abbiamo visto diverse situazioni e spiegato diversi assiomi e diverse regole generali nel corso delle precedenti due Mishnayot. Ora vedremo un caso molto particolare. Abbiamo parlato già in passato di un eventuale oggetto o bene dato in gestione a qualcun altro, eventuali problemi che avrebbero potuto accadere e come appunto trattarli. Qui parliamo di un caso che può sembrare molto anomalo, perché qui la Mishnah introdurrà per noi un nuovo concetto in tutto ciò che riguarda la gestione di appunto di eventuali problemi a livello di denaro, che non sempre possono essere gestiti in una maniera, se vogliamo, da esseri umani, cioè ci sono le situazioni normali portate davanti ad un tribunale, richiedono che ci siano dei testimoni, ci siano delle prove, ci siano dei contratti, c'è qualcosa sul quale si basa tutto il caso. Qui parleremo di una situazione in cui in teoria non c'è nulla su quale si basa il caso, oltre un fattore singolo che vedremo in un momento, e quindi in realtà da un punto di vista umano, anche di giudici, ma sempre di esseri umani, non c'è la possibilità di giudicare veramente. Ci sarebbe la volontà di un qualcuno, un privato che viene davanti al tribunale, di voler sanare una situazione andata male, ma per la regola non sarebbe tenuto a fare nulla, teoricamente. Comunque, perché veniamo davanti al tribunale allora? Perché dobbiamo, come sempre, anche ricordare che anche queste mitzvot qui, che rientrano nella categoria di mitzvot razionali, che hanno una motivazione logica, che può essere comprensibile alla mente umana, sono comunque delle mitzvot. La definizione di una mitzvah è qualcosa che lega la persona ad HaKadosh Baruch Hu, e quindi la definizione di una mitzvah è che la mitzvah è qualcosa di spirituale, qualcosa di divino. Cioè la mitzvah va oltre, anche la mitzvah che è razionalmente comprensibile, va in realtà oltre la ragione. E di conseguenza, qualora una persona non dovesse necessariamente essere tenuta a risarcire, a pagare o a qualche sanzione, la persona potrebbe volere dire comunque vorrei sanare questa situazione, anche se per la regola non sarei tenuto a farlo. Perché? Per rientrare bedinei shamaim, e cioè che anche dal cielo potessi essere visto, diciamo così, non più nel torto. Ok? In altre parole, agli occhi di esseri umani qui non c'è nessuna possibilità di dire che devi fare qualcosa, che sei nel torto. Perché, come dicevo prima, non abbiamo i presupposti. Ma dal cielo si vede tutto. E la persona dice, io so che ho fatto un errore e vorrei correggere questa situazione. La Mishnah parla anche di questi casi. E lo introduce nel nostro contesto in questa Mishnah qui, che leggeremo adesso insieme. Leggiamo la Mishnah. Capitolo 3 di Bava Metzia, Mishnah numero 3. Amar lishnaim. Se venisse una persona presso due persone diverse e dicesse Gazalti le'echad mikem mané. Ho rubato da uno di voi in passato un mané. Mané è una moneta dell'epoca della Mishnah in Eretz Israel. Il valore di 100 zuzim. Come se dicessimo ho rubato una banconota di 100 euro, per esempio, potremmo dire oggi, che appunto vale 100 euro. E quindi il ZUS è la moneta minore rispetto al manè che raccoglie 100 ZUSi. Ho rubato questa somma. Ve einio dea eisemichem. Qual è il problema? Perché vengo a dire che ho rubato? Perché mi sono pentito. Può darsi che è stato tanti anni fa, ero un giovanotto, eravamo in un, non so, una gita scolastica. Ed è successo che ho fatto questa cosa, non mi sono trattenuto. Poi, con il tempo, sono diventato più maturo, ho fatto dei percorsi e ho deciso e mi sono ricordato di questa cosa. Vorrei correggere questa situazione, ma non mi ricordo. Se usiamo l'esempio della gita scolastica, per esempio, poi potete, oppure voi potreste pensare ad altri esempi di come potrebbe accadere una cosa di questo genere. Ho rubato da uno di voi, ma non mi ricordo quale dei due. Eravamo nell'autobus, voi due eravate nel sedile, nei sedili di fronte a me, e da uno di voi ho rubato, non mi ricordo quale. Qual è quindi la domanda che lui pone al Beit Din? Cosa devo fare? Come posso correggere la situazione non sapendo a chi restituire il denaro rubato? La Mishnah, prima di offrire la soluzione, cita un'altra situazione simile a questa, ma un po' diversa. O, la Mishnah dice, oppure, Aviv shelechad mikem hifkid li manè, il padre di uno di voi due affidò a me un manè, questa stessa somma. Io non ho mai restituito e ora non mi ricordo chi era, se era tuo padre o tuo padre. Ve eini yodea eisehu, non so il padre di chi mi affidò questo manè. Allora, ricordiamoci, noi leggiamo la Mishnah, ci dovremmo immedesimare nei giudici che ricevono questa richiesta. Noi siamo nel tribunale, il Beit Din, e ci arriva la persona e ci dice, io ho detto a queste due persone che devo loro, non so a uno di loro, o perché ho rubato da uno di loro, o perché ho ricevuto in affidamento un manè da uno dei due padri di queste due persone, non mi ricordo quale. Perché nel secondo caso si parla di padri, a livello semplice, perché non si sa, anche loro non sanno dire, in tutti e due i casi della nostra Mishnah, entrambe le persone non sanno chi ha rubato da loro. Nel primo caso rubato, nel secondo caso l'affidamento è stato fatto dal padre, il padre non c'è più, è andato a una migliore vita e ora i figli si ritrovano con questa dichiarazione, io devo o a te o a me. Ok, noi siamo i giudici, cosa dovremmo fare? Non è chiaro? Il dilemma è... E questo dilemma esiste in entrambe le casistiche presentate dalla Mishnah, non c'è nessun accusatore. Nessuno è venuto davanti al Beit Din a dire mi è stato rubato un manè e questo è il ladro. Oppure mio padre ha affidato un manè e questa è la persona che non ha restituito. Non essendoci un accusatore, in realtà non c'è un caso vero e proprio, come dicevo all'inizio. E la Mishnah presenta la storia in questa maniera proprio perché vuole parlare di questa idea qui. Cosa succede qua? Non c'è un vero caso. E quindi noi abbiamo trovato il caso, ma qual è la soluzione? Vediamo un po', se la Mishnah parla di questo caso estremo, potremmo capire da questo che in un caso diverso in cui c'è un accusatore, la regola sarebbe molto più chiara. Quale sarebbe effettivamente la regola se due persone vengono e dicono tu hai rubato da me un manè e l'altro dice no, l'hai rubato da me, eravamo su quel sedile, era dal mio portafoglio che l'hai preso e non dal portafoglio dell'altro e l'altro dice il contrario. Quindi ora il ladro viene portato davanti al Beit Din, non è lui che è venuto In questo caso c'è l'accusatore, però non è chiaro perché il Beit Din riceve la richiesta da uno e dall'altro sullo stesso manè. Ok? In questo caso cosa si dovrebbe fare? Oppure dicono mio padre ti ha dato in affidamento un manè e l'altro dice no, è stato mio padre. Cosa dobbiamo fare in questo caso? Lui stesso non nega né l'uno né l'altro, però non sappiamo a chi deve dare questi, risarcire questo manè. E la risposta è che in quel caso in cui c'è l'accusatore, ok, lui deve risarcire due manè, perché lui deve sanare entrambe le situazioni per le quali è accusato. Ah, ma solo rubato un manè, perché deve risarcire due? La risposta è non avresti dovuto rubare neanche uno. Sei tu qui che sei nel torto e per sanare la situazione devi chiuderla completamente, visto che non abbiamo, nel caso appunto in cui non avessimo gli strumenti per verificare quale dei due ha ragione, tu per chiarire la tua situazione devi risarcire l'uno e l'altro. Quando c'è un accusatore o due accusatori. Come leggiamo nel commento di Rabbi Ovadia di Bertinoro, Aval shnaim shetva'uhu vehodash gazal le'achad mehem. Qualora due lo accusano e lui ammette di aver rubato, anche se ammette di aver rubato solamente uno, un manè. Ognuno di loro, qui rientriamo nella regola regolare, ci sono gli accusatori, c'è l'ammissione da parte del chi ha fatto il reato, torniamo a quello che abbiamo spiegato nelle scorse lezioni, gli accusatori fanno un giuramento, una shevua, ognuno di loro dovrà giurare è stato rubato da me, quel manè, e lui dovrà poi risarcire e pagare un manè a ognuno di loro. È ovvio che lui di base non deve effettivamente due manè, deve solamente un manè. Ma qui i Chachamim hanno fatto una sanzione. Un manè è quello che lui ha rubato e deve restituire. L'altro manè è una sanzione. Che nas, che nasu Chachamim ipnesh avar alotigzol. Come ho detto prima, lui non doveva rubare. Visto che lui ha trasgredito il comandamento del non rubare, la mitzvah di non rubare, lotigzol, di conseguenza, la mitzvah negativa ovviamente, di conseguenza i maestri in questa situazione dove entrambi gli altri hanno giurato e lui ha ammesso, hanno detto ok, allora c'è una sanzione. Knas, knas significa una sanzione. Quindi non devi pagare solamente ciò che è stato rubato, ma metterci sopra il stesso valore doppio. Nel caso simile, in cui non è stato rubato, ma è stato affidato a lui un manè da parte di uno dei padri, dice sempre Rabbi Ovadia di Bertinoro, Vechen, shenaim shetavu le'echad, due che hanno accusato uno dicendo, kol echad omer avi hifkid etzlecha manè, ognuno dei due dice, mio padre ha affidato presso di te un manè. Vehu omer, e lui dice, sì, è vero, ma non per entrambi. Echad, aviv shel echad mikem, hiniach li manè. È vero che uno dei vostri padri mi ha affidato un manè, veini odea isehu, ma non so quale dei due. Anche qui, arei kol echad mehem nishbash aviv hiniach etzlo manè. Ognuno dei due deve fare il giuramento, se vuole essere risarcito. E abbiamo già spiegato l'importanza e la deterrenza che c'è in questo giuramento nella scorsa lezione. Venoten manelase o manelase, e dà il accusato, dà ad ognuno dei due un manè intero. Allora nel caso del furto capisco perché è stato sanzionato, perché ha rubato. Perché in questo caso c'è la sanzione? Non è un ladro, cioè non è andato a rubare, gli è stato affidato, non ha saputo restituire, ok, dovrà restituire, ma perché due volte? Anche qui c'è la sanzione, perché anche qui c'è una mancanza nel suo comportamento. Qual è la mancanza? Chi hu pascia beatzmo sheayalav le dayek vilizgor mi niach etzlo amane. La sua mancanza, e quindi il suo, diciamo così, tra virgolette, peccato, il punto in cui lui rimane viene a meno è esattamente nell'idea che lui ha dimenticato, che lui non si è fatto l'appunto, che lui non si è creato un sistema per ricordare e per restituire. Il fatto stesso, in altre parole, che lui ha dimenticato da quale persona ha preso il manè e quindi non l'ha restituito, questo stesso è il problema per il quale viene sanzionato e dovrà, sempre con le condizioni del giuramento, eccetera, dovrà risarcire entrambe le persone. Ok, molto bene. Cos'è però la regola nel nostro caso? Nel nostro caso, di nuovo, non c'è l'accusatore. E forse saremmo sorpresi a vedere, e come leggeremo tra un momento, che anche nel nostro caso la Mishnah dice la regola è quella. Dovrà risarcire entrambe le persone. E sembra strano, perché di nuovo è lui che è venuto di proprio, nessuno l'ha accusato, non ci sono i presupposti per creare un caso nel tribunale, a livello tecnico. E quello che ci stanno dicendo qui i Chachamim è che effettivamente per la regola di base lui potrebbe dire ecco il manè che io ho rubato o ecco il manè che mi è stato affidato, lo metto sul tavolino, vedete tra di voi quello che volete fare. Per la regola lui potrebbe fare questo e potrebbe evitare anche di venire al tribunale, al Beit Din. Se lui è venuto davanti al Beit Din, significa che noi dobbiamo cercare di capire il suo processo mentale, a che cosa sta pensando, dove vuole arrivare con questo gesto. E i Chachamim dicono questa persona, viste le condizioni, quello che ci sta dicendo in altre parole è io vorrei essere completamente nel chiaro in questa storia. Vorrei che non ci sia nessuna macchia sulla mia coscienza, per così dire. In altre parole, si tratta di un caso in cui uno si è pentito completamente, vuole fare teshuvah, ma non vuole solamente sbarazzarsi di quel manè che non è proprio e dire ok, adesso non è più un mio problema. Lui vorrebbe che anche dal cielo venga visto bene e quindi che il proprietario del manè originale riceve di nuovo quel manè. Mettendo il manè in mezzo e magari loro se lo dividono, quello che è, comunque dal cielo sanno che lui non ha fatto la cosa completa, perché il manè non è tornato completo da dove è stato preso, o da dove è stato ricevuto nel caso dell'affidamento, del pegno. E allora questa persona non vuole semplicemente risarcire, vuole arrivare ad una giustizia completa. Di conseguenza leggiamo le parole della Mishnah, noten le zemane ve la zemane, da un manè all'uno e all'altro, e la Mishnah spiega la motivazione, shehoda, poiché lui ha ammesso mi pi atzmo, dalla propria stessa bocca. Lui ha ammesso, lui ha dimostrato con la sua, con il suo comportamento che, come dicevo prima, lui vuole rientrare in un caso, in una situazione totalmente chiara, totalmente pulita. E di conseguenza dice, io non posso sapere se un unico manè arriverà a destinazione in maniera completa e quindi il Beit Din cosa mi consiglia? Dai un manè a uno e un manè all'altro. Di nuovo, questa Mishnah non sta parlando di un caso normale gestito da giudici che possono basare la loro sentenza su delle prove, su degli strumenti chiari. Come dice infatti la Gemara, en la dayan ela mashe einav ro'ot. Un giudice non ha davanti a sé se non che quello che i suoi occhi, ciò che i suoi occhi possono vedere. In altre parole, siamo esseri umani. È solo il Signore che vede il cuore, che vede il pensiero delle persone. Solo HaKadosh Baruch Hu lo può fare. E allora in questa situazione la Mishnah sta parlando in realtà di Dinei Shamayim, di come rientrare anche nelle regole e nella visione chiara anche dall'alto, anche dalla prospettiva celeste, tra virgolette. E quindi questa è una legge e una regola di base che impariamo nella nostra Mishnah, in quanto in questioni monetarie ci possono essere dei casi in cui c'è un dubbio che è impossibile scioglierlo, come in questo caso qui. Uno dei vostri padri, come si può sciogliere questo dubbio in mancanza di qualsiasi tipo di contratto, pezzo di carta, testimonianza, eccetera, eccetera? E quindi non abbiamo gli strumenti per arrivare ad una sentenza normale, tra virgolette. La Mishnah ci insegna che c'è un secondo piano. Qualcuno vorrebbe, potrebbe voler ricorrere al secondo piano ed essere nel chiaro per tutto, anche per il secondo piano, per Dinei Shamaim, come dicevo, e di conseguenza il Beit Din ti sta consigliando qual è la regola per Dinei Shamaim. Di nuovo, per Dinei Adam, per la regola normale, potresti dare un solo manè e dire ai due interessati: signori, fate come pensate voi. Io sono nel chiaro, avevo il manè che non era mio, ora non ce l'ho più. Per Dinei Shamaim la soluzione è questa qui: paga a tutti e due. Quindi la cosa di base che abbiamo imparato nella nostra Mishnah, il concetto di base è che esiste l'idea di Dinei Shamaim e che è possibile e chiaramente è consigliabile fare giustizia oltre alla regola e alla linea normale umana del giusto e del corretto.